Radio Wombat 8 Hertz. Buonasera amici ascoltatori di 8 Hertz, sempre su Radio Wombat. Questa è una puntata di quelle con i brani molto lunghi, in cui spero di parlare poco e farvi ascoltare tanto. È un po' un proseguo dell'ultima puntata che feci con Filippo Panichi, e navigava un po' negli ambienti, proprio ambient appunto, e non abbiamo potuto mettere alcuni personaggi, alcuni brani, perché sennò diventava troppo lunga. Quindi stasera è un po' un compendio della puntata scorsa, fatta anche da outsider o da personaggi che hanno prodotto tanti dischi o tanta musica fuori dall'establishment musicale, così come il caso proprio di Lucette Bourdain, che è una francese, era una francese morta di cancro al seno purtroppo nel 2011, e questa artista, che è anche pittrice, quasi tutti i dischi o tutti i dischi sono con le grafiche curate da lei, sono dei veri e propri dipinti, ha sempre composto un ambient abbastanza positivo e piacevole, senza grossi mezzi, senza neanche troppi concetti di realizzazione tecnica. La faceva punto e basta, ed è tra le cose migliori per un certo tipo di ambient che secondo me un ascoltatore, una persona che si vuole avvicinare anche, può ascoltare senza problemi. Il pezzo che metto è lungo, ovviamente, si chiama Finding Ganesha, tratto da Seeking Ganesha, che è un album del 2008. Sono quasi tutti usciti dalla Earth Mantra Net Label, che appunto faceva solo produzioni da scaricare sul web, senza appunto avere un riferimento materiale. Non credo esista nulla di materiale, di fisico, e potete andare a vedere anche il sito su Lucette, e anche, è stato fatto anche da Lucette. Potete vedere anche le sue realizzazioni pittoriche. Buon ascolto. visto che insomma le altre puntate sono state fatte grazie a Filippo Panichi, metto un brano suo che è un po' difficile da spiegare perché non è proprio un brano suo, ma è una collaborazione con Marco Lucchi, che ha dato a vari musicisti un suo pezzo ispirato a una cadenza di Aguirre, film di Herzog, la colonna sonora di Popol Vuh. E quindi lietissimo Filippo Panichi di collaborare con Marco Lucchi a manipolato la traccia e l'ha riarrangiata attraverso l'uso della chitarra con le bow, quella sorta di attrezzo che crea un sustain che sembra quasi elettronica sulle corde. E è venuto fuori questo brano che secondo me è molto molto bello e molto di effetto. Lui mi ha detto che è praticamente una sequenza formata da soli accordi minori, quindi la composizione sembra sempre in bilico, insomma. Quindi Filippo Panichi, come presentato come Ground Loop, il pezzo si chiama Tides e il progetto si chiama Tides, il progetto di Marco Lucchi, e il brano è The Heart Shuts, The Sea Slide Back, tra parentesi, comunque è Tide. Filippo Panichi, buon ascolto. Thank you. Filippo mi ha fatto anche notare l'esistenza di Biosphere, questo musicista norvegese che secondo lui ha un po' creato il dark ambient, non perché sia venuto prima di altri, anzi è venuto un po' dopo, è attivo dagli anni 90. Il dark ambient c'era già, credo già anche dagli anni 70 sotto Mentite Spoglie. Però ha segnato un po' un modo in cui tanti altri hanno ripreso alcune sonorità, alcune proprio musiche malinconiche oltre che scure. Stasera è un po' malinconica la serata, lo so, però così insomma. Quindi ascoltatevi questo brano di Biosphere che si chiama People Are Friends, da Drop Sound del 2006. E lui passò via via da qualcosa di ritmato come poteva essere la dance, la techno, anche la chill out, e piano piano ha iniziato a introdurre elementi ambientali sempre di più, fino a che è arrivato a proporre album esclusivamente di suoni così siderali, nostalgici e scuri. altro personaggio particolarissimo è William Basinski. Non credo di avervi mai fatto ascoltare nulla nell'arco delle puntate di 8 Hertz. Nacque nel 58 a Houston, in Texas, clarinettista e sassofonista. Gli prese un po' la fissazione di comporre musica usando i loop su nastri, come un po' facevano già prima di lui Steve Reich e Brian Eno. In realtà le cose sono state pubblicate veramente anni e anni dopo. Per esempio, la sua primissima opera nel 2003. Tra l'altro, forse le sue cose più conosciute sono questi The Disaggregation Loops che sono usciti appunto sempre negli anni 2000, in cui lui aveva ritrovato alcuni dei primissimi lavori e provò a riversarli su CD, però i nastri erano veramente deteriorati, quindi quando li riversava praticamente in digitale, via via si sgretolavano e quindi hanno causato appunto delle crepe, distorsioni, dei buchi, delle cose molto particolari che ha deciso di tenere, anche se sarebbero degli errori di conversione, so, e quindi la cosa buffa è proprio l'utilizzo artistico di una cosa, di un'operazione tecnica fallita a causa delle condizioni del nastro. Comunque, stasera non vi faccio sentire niente dai Disaggregation Loops, ma vi faccio sentire un brano che si chiama For David Roberts Jones del 2007, tratto da A Shadow in Time, che è un tributo, come afferma lui, a David Bowie. Buon ascolto. Thank you. E divertendomi un po', voglio finire questa puntata con lo stesso compositore, lo stesso musicista, Mega Outsider, che, con il quale ho finito nell'ultima puntata, ovvero Omid, che sarebbe questo personaggio statunitense. Che compone in una situazione di isolazionismo, così come isolazionista è la sua musica. Mi è piaciuto così tanto che ho voluto veramente farvi ascoltare qualcosa, e questo è il brano che vi metto. È lunghino anche questo, è tratto da una raccolta, un box, una raccolta di 5 CD, mi pare. E, vi lascio così, poi il nome ve lo scriverò quando uscirà il podcast, insomma. Grazie dell'ascolto, noi ci sentiamo settimana prossima. Buonanotte, spero che vi sia piaciuta anche questa puntata e che vi siate rilassati e abbiate viaggiato con le frequenze 8 Hz che ci sono anche in questi pezzi, nei meandri della vostra mente, dei vostri segreti, delle vostre fantasie, delle vostre idee e delle vostre passioni.